È una delle caratteristiche che in qualche modo Maurizio Nobile ha sempre cercato di riproporre ogni anno, cercando di studiare degli allestimenti che mettessero in valore le opere, ma soprattutto che dessero l'idea di un insieme armonioso e molto interessante. Quest'anno in particolare abbiamo cercato di rompere completamente, ricostruendo un ambiente che potesse ricordare un atelier d'artista, quindi un ambiente di lavoro con tavoli in ferro vecchio compensato e soprattutto questi pallet rosso fuoco. Sui quali poi sono state appoggiate le sculture di marmo in un connubio veramente di grande equilibrio e interesse con i dipinti alle pareti. L'idea era un po', quella di far vedere come le opere antiche, stiano benissimo anche in un ambiente design o moderno e come si sposino perfettamente ancora con le opere contemporanee, delle quali sono chiaramente debitrici dall'antico. Io credo che questo spezzi un po' la contrapposizione che si fa sempre tra antico e moderno, che forse è anche a volte, come dire, artificiosa. Si dice che spesso questo settore soffre di un mancato, di un difficile, di un faticoso ricambio generazionale. Il ricambio generazionale è sicuramente difficile, la clientela è un po' sempre la stessa, sono gli stessi gli amanti, gli appassionati d'arte e noi invece proponendo questa nuova installazione vorremmo proprio invece catturare l'attenzione dei giovani. È interessante cercare di capire come dall'interno, quindi un operatore prestigioso, vede il futuro del settore. Cosa c'è da aspettarsi dal 2012, che è appena iniziato, e dagli anni a venire? Ma c'è da aspettarsi sicuramente un periodo di grande difficoltà del mercato, questo non bisogna nasconderlo, ma Maurizio Nobile e la sua galleria puntano e credono che puntare sulla qualità e sulla ricerca dell'oggetto, sulla veramente eccellenza sia la strada migliore. Sicuramente ci sarà da rimboccarsi le maniche, essere sensibili ai cambiamenti e in qualche modo tastare il polso alla clientela e agli amatori, cosa che forse negli ultimi anni non è stata fatta e quindi in qualche modo intercettare le nuove tendenze ed essere al passo.